Europa 24. Giorno in giorno il livello di consapevolezza europea, il livello di solidarietà europea, dal primo giorno in cui ho telefonato a Van Rompuy chiedendo che il tema fosse eccezionalmente messo all'agenda del Consiglio europeo con soli qualche giorno di preanticipo. Buongiorno da Gigi Donnelli, dunque benvenuti all'appuntamento con Europa 24, lo sentite Enrico Letta in diretta in questi minuti, dunque a sintesi del vertice in corso a Bruxelles. Allora subito ci colleghiamo con Bruxelles, con Enrico Brivio. Buongiorno Enrico. Buongiorno. Allora, immigrazione non solo, appunto, questo, come dire, questo incontro di ottobre ha cambiato di fatto titolo parecchie volte. Cerchiamo di fare il punto col tuo aiuto. Sì, come dicevi, come ha detto ora Enrico Letta, che ha appena cominciato da 5 minuti a parlare, per l'Italia questo era comunque un vertice con un punto importante all'ordine del giorno, in modo particolare era quello dell'immigrazione. Da questo punto di vista ha detto il Premier che l'Italia ha ritenuto soddisfazione in particolare sul punto che l'immigrazione venga trattata come problema europeo e quindi che si proceda con i lavori della task force che dovrà presentare entro dicembre delle proposte per far fronte all'emergenza e perché non si ripetano tragedie come quella di Lampedusa, e poi a giugno invece vi sia una riflessione dal punto di vista giuridico su strumenti come il diritto d'asilo, nella quale anche l'Italia dovrà fare la sua parte. Letta insomma ha sottolineato che da questo punto di vista le conclusioni sono state sufficienti e c'è soddisfazione da parte italiana perché il tema sia diventato di respiro europeo e si sia quindi riconosciuto che ci deve essere un'equa responsabilità e una solidarietà tra tutti i paesi europei. Insomma, chissà che su questo tema non ci sia davvero una svolta. Chiedo a Enrico Brivio di restare con noi. Sentiamo insieme un servizio realizzato invece da Valeria De Rosa su quello che era di fatto il titolo originario di questo vertice, cioè l'agenda digitale. Lo scandalo Datagate ha imposto un cambio di rotta. Era dunque inevitabile che il Consiglio europeo declinasse il tema dell'agenda digitale verso la tutela della privacy, salvo poi rilasciare una dichiarazione sottoscritta da tutti i 28, in cui si legge che una mancanza di fiducia potrebbe pregiudicare la necessaria cooperazione nel campo della raccolta di intelligence, ritenuto elemento vitale per la lotta al terrorismo. C'è quindi da scommettere che questo sarà l'aspetto dominante della digital economy, ma non si dovrebbe dimenticare che la ripresa del vecchio continente passa anche dalla banda larga e da tutti i servizi legati alle nuove tecnologie. Allo stato attuale esistono tanti mercati quanti sono i paesi dell'Unione, un ostacolo non da poco. Parlamento e Commissione spingono per chiudere sui provvedimenti già avviati entro la fine della legislatura europea. Primo, un quadro generale sulla protezione dei dati personali. Poi l'adozione del pacchetto sulle telecomunicazioni presentato a settembre dalla commissaria Nelly Kroes. È la stessa commissaria a sottolineare come negli ultimi 2 anni il settore abbia creato 700.000 posti di lavoro, un altro milione è stimabile entro il 2015. Le opportunità sono tante, dice la Kroes. Certo, oltre al lavoro bisogna dare alle persone anche le conoscenze e le competenze. C'è molto da fare, investimenti e regole sono solo una parte della soluzione. Valeria De Rosa, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Allora Enrico, a studiarlo a tavolino non sarebbe potuto essere più preciso, più puntuale. Insomma, lo scandalo che ha raggiunto di fatto l'apice quando l'altra sera le fonti di stampa tedesca hanno parlato di cellulare di Angela Merkel sotto controllo arriva su questo tema dell'agenda digitale e è stato subito messo in testa ai lavori, ma emerge davvero una posizione comune che potrà, diciamo, incidere sul presente e sul futuro? Ma è una posizione comune fino a un certo punto. Come dicevi, è interessante che questo problema del Datagate sia piombato proprio su un vertice che aveva all'ordine del giorno come punto, come piatto forte, l'agenda digitale. Su questo si è anche, se vogliamo, rispolverato un asse franco-tedesco, perché c'è stata una comunione di intenti di Angela Merkel e François Hollande, che in altri campi, come sappiamo, economico, unione bancaria, rilancio dell'economia, non sempre c'è la stessa sintonia. economia. Ora, indubbiamente una dichiarazione comune è stata messa a punto, però poi a negoziare con gli Stati Uniti un codice di condotta entro fine dicembre saranno Germania e Francia, per cui da un lato c'è stata una risposta comune nonostante qualche resistenza inglese, d'altro canto però prevale un approccio intergovernativo, cioè dei singoli governanti, perché a Washington andranno i francesi e i tedeschi, non Barroso o Herman Van Rompuy, insomma. Insomma, si ritorna anche un po' in questa circostanza alla vecchia politica di potenza, posizione inglese che peraltro, lo ricordiamo, questo è uno dei paradossi della politica europea, partecipa al programma di spionaggio americano. Con questo io ringrazio Enrico Brivio per essere stato con noi in diretta da Bruxelles. Europa 24 naturalmente torna lunedì intorno alle 14. Un saluto. Europa 24 in collaborazione con Euronet Plus.